Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Van Loon, programma a cura del Caso S. Van Loon come Henrik Willem, noto storico e divulgatore olandese. Caso S come il gruppo di studentesse e studenti bolognesi che ha dato vita ad un progetto di comunicazione storica. Ogni due settimane saranno loro a parlarci proprio di storia, sottoponendoci spunti di riflessione ed approfondimenti di vario genere, anche legati ad argomenti di attualità. In questa decima puntata, in occasione della festa del 2 giugno, si parlerà della carta su cui la nostra Repubblica si fonda, la Costituzione del 1948 e in particolare dell'articolo sul diritto alla resistenza che non trovò spazio nella stesura finale del testo. Sentiamo! Ciao a tutte e tutti da Elena e Debs. Parate militari e retorici discorsi istituzionali nascondono i vari motivi di festa di ogni 2 giugno. Uno di questi è sicuramente la Costituzione italiana, fondamento della nostra Repubblica. I difficili lavori dell'Assemblea Costituente durarono un anno e mezzo. Oggi vi raccontiamo di una vicenda poco conosciuta, la discussione intorno all'articolo sul diritto alla resistenza, che non trovò spazio nel testo finale. La resistenza individuale e collettiva agli atti dei pubblici poteri che violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla presente Costituzione è diritto e dovere di ogni cittadino. Questo recitava l'articolo di Giuseppe Dossetti, esponente della DC. Infatti, la richiesta del diritto alla resistenza veniva proprio dalla Democrazia Cristiana. Una formulazione simile, intendendo la resistenza non soltanto come un diritto, quindi una rivendicazione, ma anche come un dovere, sarebbe stata problematica per il peso attribuito all'individuo rispetto alla sfera statale. Tuttavia, la trascrizione di questo articolo nei vari gradi di approvazione venne prima annacquata, poi definitivamente bocciata. Ma di che tipo di resistenza parliamo? Quella pensata da Dossetti è una resistenza costituzionale, e cioè un atto di disobbedienza del singolo cittadino o di gruppi di cittadini nei confronti di quelle decisioni dei poteri pubblici ritenute contrarie allo spirito della Costituzione. In questo senso il concetto di resistenza descrive l'azione di chi, cittadino governato e non governante, riconosce nei comportamenti e nelle decisioni di chi governa un atto contrario alla legge fondamentale su cui si basa la comunità politica nella quale vive. La ribellione può venire in forme diverse, dalla non violenza ad atti di resistenza, che implichino l'uso della forza, e il fine è ottenere il rispetto dell'atto costituzionale. Cosa diversa è quando la ribellione avviene contro il sistema integralmente inteso, ritenuto ingiusto e dunque illegittimo. Allora non si parla più di resistenza, ma di rivoluzione, che è il tentativo di sovvertire l'intero sistema. Quello a cui pensava Dossetti non era rivoluzione, bensì resistenza. Perché il suo articolo fu respinto? Le ragioni sono molte, sia di carattere dottrinario, sia di carattere politico. L'Assemblea Costituente era chiamata a formare uno Stato nuovo, che nasceva dalla resistenza contro il regime fascista e l'occupazione tedesca. Il testo dell'articolo fu ostacolato tanto da membri della DC quanto del PC. Al di là delle rivendicazioni specifiche da cui erano rispettivamente mossi, entrambi temevano che un articolo del genere avrebbe indebolito l'autorità dei partiti, cui nella Costituzione era assegnato un ruolo cardine nella politica del paese. È l'articolo 49 a sancire questo primato, che recita: tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Se ai diversi gruppi di cittadini, dei movimenti, ai sindacati, alle associazioni fosse stato riconosciuto il diritto e il dovere di opporsi legittimamente allo Stato nel caso di decisioni incostituzionali, allora il ruolo dirigente dei partiti politici si sarebbe evidentemente ridotto. A questo si aggiungeva l'instabilità della situazione politica di allora, nell'immediato dopoguerra. Né De Gasperi né Togliatti potevano cogliere appieno gli equilibri politici che avrebbero caratterizzato il paese. Entrambi furono animati dalla volontà di evitare potenziali situazioni di caos politico e l'indebolimento dei partiti. In realtà, un articolo sul diritto alla resistenza avrebbe potuto rappresentare un richiamo più diretto proprio alla resistenza dei partigiani e di tutti gli antifascisti. L'articolo avrebbe sottolineato proprio il valore esemplare di un evento, come quello della lotta di liberazione dal nazifascismo, che descrive l'atto di disobbedienza e di ribellione di un certo numero di persone contro un potere ritenuto dispotico e ingiusto. contro il quale si rende necessaria una decisione di disobbedienza volta a ristabilire i diritti e le libertà che il fascismo aveva cancellato. Rifiutando l'articolo sul diritto alla resistenza, si rifiuta in un certo senso l'eredità di alcune sperimentazioni istituzionali, come per esempio le repubbliche partigiane della Val d'Ossola e di Montefiorino, fondate sul principio dell'autogoverno e provviste di strumenti di autodifesa dalle istituzioni stesse. Perché oggi tutto questo discorso ci interessa? Tra indignati, Notav e vari movimenti di cittadine e cittadini che reclamano un modo diverso di gestione del paese, ci sembra importante riflettere ancora sulla legittimità dei singoli di portare avanti delle rivendicazioni, insomma di resistere. Emerge sempre più una distanza tra rappresentati e rappresentanti, e con questa il risentimento verso un sistema ritenuto sempre più inadeguato e a volte non legittimato a prendere decisioni che riguardino singole comunità o l'intera collettività. Proprio tale distanza crea lo spazio per nuove forme di resistenza, pacifica e non, contro le decisioni degli organi istituzionali. E con queste riflessioni ci salutiamo. Vi invitiamo a visitare il nostro sito www.casos.org e alla prossima puntata.